In order to support all of you in your meditation practice, topic of today's Dhamma talk will be walking meditation, in Pali known as Jhakkama. Per sostenere tutti voi nella vostra meditazione, la vostra pratica, il discorso di questa sera sarà sulla meditazione camminata, che in Pali si dice Jhakkama. Jhakkama. Now, what we shall do is we shall take a look at the etymology of the term, and then also give a few examples of walking meditation as mentioned in the text, and then the very basic instructions from the Satipatthana Sutta, how to do the walking meditation, and then the benefits of and then also the phenomenology relating to the walking meditation, and then the benefits of it. Quindi vedremo diversi aspetti della meditazione camminata, cominciando dalla etimologia, e poi andremo a vedere dove si trova menzionata la meditazione camminata nei testi, poi le istruzioni così come sono date nel Satipatthana Sutta. Successivamente parleremo della fenomenologia in relazione alla meditazione camminata e infine i benefici della meditazione camminata. So the Pali term Jhakkama corresponds to the Sanskrit word Jhakkama. Quindi la parola in Pali Jhakkama deriva dalla parola sanscrita Jhakkama. Jhakkama. There you go. And so there are two meanings to it. The first one is as walking up and down, and the second one is the place where one is walking. So in other words, maybe a cloister or a terraced walk. Allora, ci sono due significati di questa parola. La prima è di camminare su e giù. Il secondo significato si riferisce al luogo dove si cammina, che potrebbe essere o un chiostro, si dice così, no? un chiostro, oppure un terrazzo, e quindi una camminata in un chiostro oppure in un terrazzo. And so, the Pali verb for this is Jhakkamati, and this means to walk about or to walk up and down. Quindi la parola Pali, il verbo Pali è Jhakkamati, e questo significa andare, camminare su e giù. And then there's yet another Pali word for this walking or walking meditation, namely given as Jhakkamana. Quindi un'altra parola è Jhakkamana. Sempre un'altra parola Pali che si riferisce alla meditazione camminata. And so, the meanings are as given early on. E i significati sono però gli stessi, così come abbiamo appena dato. Now, in some modern traditions of Vipassana meditation, walking meditation is not being mentioned at all, or neglected. However, there's plenty of evidence from the texts that the Buddha himself practiced walking meditation, as did his disciples. In molte pratiche di Vipassana moderne non viene né menzionata la meditazione camminata, né tantomeno praticata o suggerita, però ci sono proprio delle prove certe sul fatto che il Buddha stesso praticava la meditazione camminata, così come i suoi discepoli. And there is, for instance, one passage in the Samyutta Nikaya, volume 1, section 107, where the Buddha is reported practicing walking meditation. C'è in particolare un passaggio nel Samyutta Nikaya dove si riporta proprio che il Buddha sta praticando la meditazione camminata. And that section is as follows, namely, on one occasion, the Blessed One was dwelling at Rajagaha in the bamboo grove, the squirrel sanctuary. Allora, il brano dice, a un tempo il beato stava meditando a Raja Gaya nel boschetto, nel boschetto di bambù, nel santuario degli scoiattoli. Yes. Then, when the night was suddenly fading, the Blessed One, having spent much of the night walking back and forth in the open, washed his feet and entered his dwelling. Allora si dice che quando la notte si stava esaurendo, dopo aver camminato tutta la notte, il Buddha si lavò i piedi ed entrò nella sua dimora. And suddenly then he lay down on his right side in the lion's posture and with one leg overlapping the other. E poi si sdraiò sul fianco destro nella postura del leone con una gamba sopra l'altra. And suddenly then, mindful and clearly comprehending, he then decided on what time to get up in the morning. E poi, in modo consapevole e con una chiara comprensione, lui decise a che ora si sarebbe svegliato al mattino. And suddenly, what is meant with the very last part is that suddenly the Buddha and his disciples would, when going to bed, just before falling asleep, would determine at what time, or incline the mind at what time in the morning they would suddenly want to get up. E questa ultima parte sta a indicare che il Buddha, così come i suoi discepoli, prima di addormentarsi, dirigeva la mente verso l'orario in cui si sarebbero svegliati il mattino seguente. Hmm. And so, this certainly would be at the time of the Buddha, there were no alarm clocks, and certainly so that was certainly his way of handling the situation. Ai tempi del Buddha non c'erano sveglie, e quindi questo era il modo del Buddha di gestire la situazione. And with a little bit of training, we can even do this nowadays. E con un po' di addestramento possiamo farlo anche noi al giorno d'oggi. Now, the Buddha practiced walking meditation, of course, not only during the night time, but also during the day. Ovviamente il Buddha praticava la meditazione camminata non solo di notte, anche di giorno. And so, there's another rather impressive passage from the second volume of the Samyutta Nikaya, section 155, that reports the Buddha, as well as all of his senior disciples, engaged in walking in meditation, and each of those senior disciples with his group of followers. E c'è un altro brano che insomma è abbastanza significativo, sempre del Samyutta Nikaya, in cui si dice che il Buddha appunto praticava la meditazione camminata insieme ai suoi discepoli più anziani, e insieme a ogni suo discepolo anziano c'erano i loro rispettivi discepoli, ognuno col proprio seguito di discepoli. Okay. And if you read that passage, then it's quite amazing. The Buddha based in the end, or he talks about each group of disciples doing the walking meditation, and then he talks about Devadatta and his group of disciples, and then the Buddha says, well, all like-minded people are together. Allora, questo brano è incredibile perché parla appunto singolarmente di ogni gruppo di discepoli che facevano meditazione camminata, e riferendosi a Devadatta e al suo gruppo fa la seguente affermazione, cioè tutte le persone che hanno una mente simile stanno insieme. Devadatta was the foremost among the Buddha's disciples to oppose him on several occasions. Devadatta tra i suoi discepoli era quello che in più occasioni si era opposto al Buddha. Now, in Anguttara Nikaya volume 5 section 65 we find a passage involving King Basanadi and the monks practicing walking meditation during the daytime. Nell'Anguttara Nikaya c'è un passaggio in cui si parla del re Pasanadi e dei monaci che facevano la meditazione camminata durante il giorno. So at the time, the Blessed One was staying at Sawati, at the Jeta's Grove, and suddenly King Pasanadi of Kosala approached, wanting to meet the Buddha, and suddenly it says, now at that time a number of monks were walking up and down in the open air. E quindi l'episodio è il seguente, quindi io non sono un'esperta nei luoghi del Buddha, spero mi ricordare. Allora, il Buddha si trovava nel boschetto di Jeta a Savati, e lì vicino c'era appunto il re Pasanadi, che il Buddha andò the king approached the Buddha, e quindi il re Pasanadi si avvicinò al Buddha. E nel descrivere quindi questo episodio si dice che i monaci stavano praticando la meditazione camminata. And suddenly then the king saw these monks practicing walking meditation, and he approached them and asked, where can I find the Buddha? And then they replied, see that cottage over there, go there and then clear your throat and then enter. E quindi appunto si dice che il re chiese proprio a questi monaci che stavano camminando dove si trovasse il Buddha, e loro gli indicarono un cottage, una casetta, e gli dissero di andare lì, di schiarirsi la gola e poi di entrare. Now, then we have another reference to the walking meditation, this time from volume 4 of the Samyutta Nikaya, and there in the connection of wakefulness, and that passage reveals an interesting point. Allora, c'è un altro passaggio in cui si parla della meditazione camminata, sempre nel Samyutta Nikaya, ed è in riferimento allo stare sveglio, alla mente vigile, e contiene dei punti interessanti. And so here during the day, while walking back and forth and sitting, a bhikkhu purifies his mind of obstructive states. Allora, lì si dice che qui durante la meditazione seduta e quella camminata, un bhikkhu, cioè un monaco, si chiarisce la mente o purifica la mente da quegli stati ostruttivi, cioè che creano delle ostruzioni. And then, in the first watch of the night, while walking back and forth and sitting, the bhikkhu and by extension all of us purifies the mind of obstructive states. E poi continua dicendo, nella prima parte della notte un bhikkhu, o per estensione un meditante, camminando su e giù, libera la mente da questi stati ostruttivi. And suddenly in the middle watch of the night, of course, suddenly the bhikkhu does what? E poi ovviamente nel mezzo della notte il bhikkhu cosa fa? Well, he walks. Sleep. Va a dormire. And then during the last watch of the night, so that's certainly in the early morning, our bhikkhu then gets up, and certainly then again, while walking back and forth and sitting, he purifies his mind of obstructive states. E quindi poi nell'ultima parte della notte, che corrisponde al primo mattino, il bhikkhu si alza e di nuovo camminando su e giù e sedendosi libera la mente dagli stati ostruttivi. And it is in this way that one is devoted to wakefulness. Ed è in questo modo che la persona sviluppa questo stato di veglia, diciamo, o si è devoto, si impegna a essere sveglio. Now, the instruction says that a bhikkhu then purifies his mind of obstructive states. And the term obstructive states gets explained as the five hindrances. So in walking meditation, this bhikkhur, meditator, then is doing mostly cittanupassana, contemplation of the mind or contemplation of dhammas. Allora, si parla di questi stati ostruttivi della mente. Allora, con questi poi nell'istruzione, appunto, si parla degli stati ostruttivi e vengono spiegati con i cinque ostacoli. Quindi questo significa che il bhikkhu o il meditante, facendo la meditazione camminata, sta facendo cittanupassana, cioè la contemplazione della mente o dei dhamma. Now, when you look at the way we do walking meditation, especially in modern times, then you'll find a difference here. And so most modern meditation teachers who do, those who do instruct walking meditation, then emphasize to pay attention on the predominant sensations that occur in the foot while lifting, moving and placing the foot. Quindi questo è un po' diverso dalle istruzioni che vengono date soprattutto dagli insegnanti moderni di Vipassana, quelli che includono la meditazione Vipassana nelle loro istruzioni. Perché di solito si dice che occorre fare attenzione alle sensazioni fisiche del piede mentre si fa la meditazione camminata. No. So there's more emphasis on the observation of physical formations than on mental formations. However, once in a while, if let's say thinking is taking overhand or is taking over, then like in the Mahasaya tradition, then a meditator would be advised to contemplate that wandering mind. E quindi l'enfasi è più sui fenomeni fisici rispetto a quelli mentali, anche se, come nella tradizione Mahasi, si consiglia al meditante, se dovesse prevalere per esempio l'attività del pensiero o la mente che divaga, allora appunto si consiglia di osservare quella. No. There is yet another passage in connection with walking meditation that deals mostly with the benefits, or one particular benefit of walking meditation, and it's a passage that involves Elder Mahamoggallana. C'è un altro passaggio in cui si parla appunto della meditazione camminata in riferimento ai benefici o soprattutto a un beneficio, e questo passaggio si riferisce all'anziano Moggallana. So the elder Mahamoggallana was practicing meditation and sitting meditation, and the Buddha with his mind's eye then saw that elder Mahamoggallana was sleeping, was nodding. Allora, appunto qui in questo passaggio si dice che l'anziano Mahamoggallana era seduto in meditazione e il Buddha, con l'occhio della mente, vide che stava dormendo, che quindi stava andando giù con la testa. And so then the Buddha gives a number of points of advice, and certainly he keeps saying, okay, if this piece of advice is not working, then try the next. If the next piece is not working, then try again the next. E dà una serie di consigli da seguire in questa situazione, dicendo: prova a fare questa cosa, se questa non funziona, prova quella successiva, se non funziona neanche quello, prova l'altra, e via di seguito. And so relevant here is, if it, the nodding, pass not, then, with the senses withdrawn, the mind not outward gone, should you fix your thought on the walking meditation of the walking path. Allora qui appunto all'interno di questi consigli si dice: se questo ciondolare della testa non se ne va, se non si riesce a superare, allora con i sensi contenuti e con la mente che non divaga, non va al di fuori, dovresti contemplare la meditazione camminata. And then be conscious of walking forwards and back, ahead and backwards. E quindi sviluppa la consapevolezza rispetto all'andare avanti e indietro. And doing so, that drowsiness of yours might pass away. Facendo così, quella sonnolenza che hai potrebbe andarsene. Now, the actual meditation instructions on the walking meditation can be found in the Satipatthana Sutta, and certainly there in section or volume 1, section 56 of the Majjhima Nikaya. E le istruzioni vere e proprie per la camminata si trovano nel Satipatthana Sutta e sono nel capitolo 2, sezione 56 del Majjhima Nikaya. First volume. Ah, volume 1, scusate. Again, O meditators, when walking, one knows I am walking. Allora, si dice meditante quando cammina sa che sta camminando. And suddenly then, when standing, one knows I am standing. Quando uno è in piedi sa che sta, è in piedi. And when sitting, one knows I am sitting. Quando uno è seduto sa di essere seduto. And when lying down, one knows I'm lying down. E quando si sdraia, quando giace, sa che di essere sdraiato. Or one knows accordingly how everyone's body is disposed. O comunque uno sa in ogni momento quale posizione ha il corpo. Now, these are the instructions, and so these instructions on the walking meditation give you a clear idea of how to do it. Quindi queste sono le istruzioni. E queste istruzioni vi danno una chiara idea su come farla? Camminata? Not really. Not really. So we need to explain quite a bit. Non molto, e quindi dobbiamo spiegarlo un po' meglio. So therefore, the Venerable Hasisada from Burma gave clear-cut instructions on how to do the walking meditation. So one chooses a path that maybe is 5-10 meters long, and then mindfully one walks up and down. Il venerabile Mahasi Sayadaw della Birmania ha dato delle istruzioni molto chiare riguardo alla camminata, e dicendo che uno si sceglie un percorso di 5-10 metri e poi in maniera molto consapevole lo percorre su e giù. And so, then, as explained already at the outset of the retreat, one can divide the walking meditation in three different forms, namely first one labels as left step, right step, and then one divides one step into two parts, namely the lifting of the foot and then the placing of the foot, and then eventually one can even divide one step into three parts. E come abbiamo spiegato all'inizio del ritiro, si può dividere la camminata in tre parti, in tre periodi. Allora, nella prima parte uno si concentra un po' sulla etichetta gamba destra e gamba sinistra, nella seconda parte divide il passo in due e quindi presta attenzione all'alzarsi del piede e all'abbassarsi, e nella terza fase invece divide il passo in tre parti, l'alzarsi, l'avanzare e l'abbassare. And each of these movements then is preceded by a mental noting or labeling. E ognuno di questi movimenti è preceduto da un'etichetta mentale. And then we carefully observe whatever predominant sensation comes up, or the type of movement that comes up. E poi attentamente osserviamo qualunque tipo di sensazione che possa sorgere, o anche qualsiasi movimento che sorge. And so, then we also come to know the different qualities of the sensation, or different qualities of formations coming up. E così riusciamo a comprendere tutte le diverse qualità delle formazioni che sorgono. And so when we do the walking meditation, we could, if intentions are already evident, predominant, we could also include the intention to start walking or to lift the the foot or to move the foot, etc., as an object of observation. Se le intenzioni sono abbastanza evidenti, sono in primo piano, allora potremmo anche prendere le intenzioni come oggetto di osservazione, quindi l'intenzione di alzare il piede, di avanzare, o di fermarsi e via di seguito. And certainly the Venerable Sadhu Upanita Vimamsa of Burma clearly states that certainly we label and observe and know intentions only if an intention is predominant. If it's not there, there's no need to look for it. E il Venerabile Upandita chiarisce molto bene che l'intenzione la prendiamo come oggetto solo se è in primo piano, se è predominante, altrimenti non c'è bisogno di andarla a cercare. Now, on occasion we may want to intensify our walking meditation, and under these circumstances what we might do is to further to divide one step into further parts. E ci saranno dei momenti in cui vogliamo intensificare la nostra meditazione camminata, allora una cosa che possiamo fare è suddividere ulteriormente il passo. And so the lifting movement then gets divided into the the foot leaving the ground, that being one part, and then the second part certainly being the foot then moving upwards, horizontally upwards through the air. Per esempio, il movimento del sollevare il piede può essere diviso in due parti, quindi la prima parte è il quando il piede si stacca da terra, e la seconda parte quando il piede si alza. And then, as for the forward movement, this too we can divide into two parts, namely the first part, and then naturally there comes a certain point where the movement ends, and then it will start again until it comes to the very end of the movement. E quindi anche l'avanzare del piede può essere diviso in due parti. Quindi c'è l'avanzare iniziale del piede, poi ci sarà un momento in cui il piede automaticamente si ferma e poi riprende per una seconda parte. And suddenly that division is suddenly happening quite naturally. E questa è una suddivisione che succede in maniera abbastanza naturale. And suddenly then we could suddenly divide the lowering of foot, the lowering and placing of the foot into two parts, namely the lowering being one part, and then the placing of the foot on the ground being the second part. E anche l'abbassare del piede possiamo dividere in due parti, quindi c'è l'abbassarsi vero e proprio e poi il contatto con il terreno. And so, when you do the walking meditation, then if you do it really slowly, and so, let's say maybe even supporting yourself against something and with eyes closed, then you can observe and come to know many, many, many details. E se fate la camminata in maniera molto lenta e consapevole, con gli occhi chiusi magari, tenendovi contro il muro, allora riuscirete a vedere tantissimi dettagli. And so, as mentioned already during the outset of our retreat, the walking meditation is as important as the sitting meditation. Come abbiamo detto all'inizio del ritiro, la meditazione camminata è tanto importante quanto quella seduta. Now, when it comes to the some of the experiences that take place during the walking meditation, we have the following. Per quanto riguarda le esperienze che possiamo avere durante la meditazione camminata, allora ci sono le seguenti. The first one being that when we start a retreat we're used to walking at quite some or an ordinary pace, and now the instruction is to slow down the walking, then this frequently leads to a certain imbalance. A meditator easily loses his or her balance. Physically. Physically, yes. Allora, uno dei primi effetti è che I haven't even thought about the other aspect. Quando siamo abituati a camminare velocemente, quando cominciamo un ritiro, appunto, ci danno le istruzioni di camminare più lentamente, e questo potrebbe risultare in un senso di squilibrio fisico. Now, when you observe beginning or meditators at the beginning of a retreat, then you'll find that quite a number, of course not everyone, quite a number still tend to be rather quick. They want to move around quickly, they want to get to certain places quickly. And secondly, their movements tend to be somewhat rough. Quando, cioè, se osservate i meditanti all'inizio di un ritiro, vedrete che tendono proprio a andare più velocemente, cioè a voler raggiungere la destinazione in fretta. E inoltre i movimenti sono anche un po' grossolani. And so, for instance, in Lumbini, in our dining hall, when I see meditators walking out of, new meditators walking out of the dining hall, then some of them, you really think they're going to fall over. A volte a Lumbini, quando osservo i nuovi meditanti che arrivano, quando escono dalla sala da pranzo, a volte penso, ma questi qui adesso cascano. Perché non sono abituati ad andare così lentamente. No, another common aspect is that during the beginning phase of our meditation practice, usually in terms of the intentions, we come to know only very few of them. Ecco, un altro aspetto per quanto riguarda le intenzioni, all'inizio del nostro ritiro noi riusciamo a coglierne solo alcune. Now, as our meditation will deepen, this will change and we'll come to know more intentions. Man mano che si approfondisce la nostra pratica, riusciremo a conoscere più intenzioni. And certainly, for instance, the intention to, when reaching the end of one's path, then to turn around, and so then one takes this as an object, one labels it as intending to turn, and certainly then one observes it, one knows it, and certainly then the actual turning movement takes place. Per esempio, quando uno arriva alla fine del percorso, può notare l'intenzione di girarsi, lo etichetta come intenzione di girarsi, e poi effettivamente si gira per riprendere la camminata. And so meditators during the early phases of the walking meditation, sooner or later might find there's this whole range of physical sensations taking place in the foot, and then there may also be this whole range of mental objects. Quando uno comincia a fare la meditazione camminata, si accorge che c'è tutta questa gamma di sensazioni a livello del piede, e allo stesso modo c'è tutta una gamma di sensazioni anche nella mente. To give you an example, let's say there's hardness in the ball of the foot, and then there's the observation of it and the knowing of it. Per esempio, vedrà che c'è una durezza sulla pianta del piede, c'è, e c'è poi l'osservazione di questa durezza e il notare la durezza. Okay. Now, with further practice, with the further deepening of our practice, then there will be some changes with regard to the walking meditation, and as mentioned, we'll see more intentions. Con il progredire, l'approfondirsi della pratica, ci saranno più, cioè si vedranno più cose, e come abbiamo già detto, si vedranno più intenzioni. And certainly we might also then come to understand the cause and effect, certain relationship that is taking place, or relationships that are taking place during the walking meditation. E riusciremo a vedere le relazioni di causa effetto che avvengono durante la meditazione camminata. So to give you an example, there is first the mental intention to start walking, and then this is followed by the physical process of actually walking. Allora, per darvi un esempio, c'è l'intenzione mentale di iniziare la camminata e questa è seguita dall'azione fisica del camminare effettivo. Or we might during the walking meditation we might see another meditator walking by, and suddenly this thing might suddenly trigger a certain mental reaction, positive or negative or neutral. Potremmo durante la nostra camminata notare un altro meditante che cammina accanto a noi e questo potrebbe, come dire, potrebbe scatenare una reazione mentale o positiva o negativa o neutra. And suddenly, when we do our walking meditation with utmost care and respect, and really slowly, really paying attention to every little detail, then we might find that sensations occurring within one single forward movement that they keep changing. Allora, quando riusciamo a fare la camminata con la massima cura, il massimo rispetto, molto lentamente, con una grande consapevolezza, potremo notare che anche solo nel movimento dell'avanzare del piede ci sono molti cambiamenti nelle sensazioni. And so we might find suddenly that at first the movement is suddenly somewhat slow, then it becomes suddenly faster, and then there might be some heaviness in the foot, or then we might notice that the movement is segmented, etc., etc. Per esempio, potremmo vedere che all'inizio il movimento è lento, poi accelera un pochino, poi c'è un po' di morbidezza nel piede, e poi magari c'è un po' di si muove un pochino, insomma, un po' di movimento nel piede. The movement is segmented. Sì, il movimento è un po' segmentato, ecco. And suddenly, then eventually, the movement slowly comes to an end. E poi che il movimento alla fine, cioè che arriva poi alla fine. And so, so with this, a meditator then will be seeing the impermanent nature of or during the walking meditation. E quindi in questo modo il meditante vede la natura impermanente durante la meditazione camminata o even, della meditazione camminata. Even though one may want a particular object to be permanent and to last for a longer period of time so that one can observe it nicely, it's not necessarily happening that way. Se uno dovesse volere che l'oggetto rimanga tale e fosse permanente in modo che si possa osservare meglio, beh, si accorge che non succede così, questo non è possibile. And the very fact that objects keep changing all the time, then actually is the aspect of unsatisfactoriness. Il fatto che questi oggetti cambiano in continuazione corrisponde all'aspetto dell'insoddisfazione. And on top of this, a meditator might be experiencing a number of unpleasant, maybe even painful sensations during the walking meditation. Inoltre, il meditante potrebbe provare delle sensazioni spiacevoli o anche dolorose durante la camminata. And at times, the walking meditation can get quite, quite difficult, and might be quite tiring. A volte la meditazione camminata può diventare molto difficile e molto stancante. And one barely manages to take another step. E uno non riesce quasi neanche a fare un altro passo. And the leg and the body as a whole may be quite heavy. E la gamba e il corpo in generale possono apparire molto molto pesanti. Now, fortunately, it's not like this all the time. Per fortuna non è sempre così. That would be terrible. Sarebbe terribile. Now, As one then goes on with one's satna practice, one's mindfulness, one's intuitive wisdom deepens, then one might certainly have an experience of the walking happening all by itself. Man mano che si approfondisce la consapevolezza, si sviluppa la consapevolezza e anche la saggezza intuitiva, uno potrebbe arrivare al punto in cui sembra che la camminata vada per conto suo, vada avanti da solo. So, you know, there's no I causing it to happen, there's no one in control, but certainly or rather it just happens by itself. Non c'è nessuno che causa il suo succedere, non c'è nessuno in controllo, ma semplicemente accade da solo. And so that then would be discovering the anatta aspect. E questo corrisponde alla scoperta dell'aspetto di anatta. When one then goes on or continues with one's practice and certain things deepen further, things change quite a bit, and certainly then the body that earlier on was quite heavy now becomes certainly pretty light, and certainly then meditators on occasion say it feels, the walking feels like walking on a cloud. Allora, quando la pratica diventa ancora più profonda, ci sono ulteriori cambiamenti. Se prima il corpo sembrava molto pesante, adesso comincia a avere questo aspetto di leggerezza, e alcuni meditanti riferiscono che gli sembra di camminare su una nuvola. Or sometimes certain meditators say it feels like having springs underneath one's feet. Oppure hanno la sensazione di avere come delle molle sotto i piedi. Now, much later on in our meditation practice, when our insight, knowledge, our wisdom is quite or is highly developed, then we find that our movements in the walking meditation become extremely graceful and balanced. Più avanti nella pratica, quando si sviluppano ancora degli insights, delle intuizioni profonde, e anche la saggezza si raffina, allora potremmo accorgerci che i nostri movimenti sono molto più aggraziati, is it graceful? And balanced. Ed equilibrati. And this then, of course, differs greatly from the walking meditation of beginning meditator. E questo è molto diverso dalla camminata di un meditante principiante. So, a meditator, an experienced, advanced meditator, when he or she is doing the walking meditation really slowly, there is certainly no major concern that one might be falling over. Quindi quando un meditante esperto sta facendo la camminata, allora non c'è nessuna preoccupazione riguardo al fatto che possa cadere. Now, simply by observing meditators and carefully checking how they do their walking meditation, one can already make an educated guess at what is happening in a person's practice. Semplicemente osservando come un meditante fa la propria meditazione camminata, questo è sufficiente per capire come sta andando la pratica di quel meditante. And so the Venerable Sadhu Panita Bhimansa of Burma, for years and years and years, as the abbot of not just one meditation center, but many meditation centers, let's say, around lunchtime, just before lunchtime or breakfast time, stand somewhere where people couldn't see him and then check how the yogis are doing the walking meditation. Il venerabile Upandita, che è l'abate di molti monasteri, aveva questa abitudine di mettersi, di nascondersi, magari dopo i pasti, e osservare i meditanti per vedere come facevano la camminata. And or else, just by observing a meditator coming into the interview room, this too would give you already a pretty good idea of what's going on. Oppure anche solo osservare il meditante quando entra nella stanza per un colloquio, questo già gli dava una buona idea di quello che stesse succedendo nella sua pratica. Now, when it comes to the benefits of the walking meditation, then it's recommended to do the walking meditation as a way of balancing postures. So if one, as a meditator, if one were to do only the sitting meditation, so hour after hour, just sitting, then this might have all sorts of adverse impacts on the body and on the mind. Allora, per quanto riguarda i benefici della meditazione camminata, il primo è quello che offre la possibilità di un equilibrio nelle posture. Se uno dovesse fare solo la meditazione seduta, una seduta dopo l'altra, allora questo sicuramente avrebbe un effetto sul proprio fisico. And so, as mentioned already at the outset of our this third period, when we sit for one hour, then it's good also to walk for one hour. Come abbiamo detto all'inizio di questa terza parte del ritiro, quando uno si siede un'ora, è bene anche fare un'ora di camminata. However, later on this of course may change. Questo poi potrebbe cambiare. No. Walking meditation may also be used very well early in the morning, shortly after getting up, in order to energize both the body as well as the mind. Può essere utile fare la camminata immediatamente dopo il risveglio al mattino, perché questo è un modo per energizzare sia il corpo che la mente. So let's say you wake up early in the morning, and then you get up and you still feel somewhat sleepy. Then do some walking meditation before your first sitting. Immaginiamo di alzarci al mattino e se ci sentiamo ancora un po' addormentati, allora il venerabile consiglia di fare un po' di camminata prima della seduta del mattino. Or in the course of the day, if you've just had one entire sitting with much drowsiness, your head nodding again and again, then you could consider doing some walking meditation. Se avete, o durante la giornata, se avete fatto una seduta in cui eravate particolarmente assonnati, allora è una buona idea fare una meditazione camminata. Potrebbe aiutarvi a liberarvi della pigrizia e torpore. Now, the walking meditation also helps to further develop our continuity of mindfulness, that mindfulness that we've gained through the preceding sitting. Allora, la camminata può anche aiutare la continuità della consapevolezza, cioè a mantenere la consapevolezza che si è sviluppata nella precedente seduta. Now, apart from these benefits, the Buddha himself, in the so-called Chankamatna Sutta, describes five benefits. Allora, a parte questi benefici, il Buddha stesso nel Chankama Sutta descrive, did you say the number? Five. Cinque benefici. So the first one is by doing walking meditation hardens one for traveling. Allora, il primo beneficio è che la meditazione camminata irrobustisce la persona per viaggiare, aiutandolo nei viaggi. Now, of course, at the time of the Buddha, the monks and nuns had, and anyone else had no motor vehicles at their disposal. Solamente ai tempi del Buddha, i monaci e comunque chiunque persona in generale non avevano a loro disposizione delle auto, dei veicoli a motore. And suddenly, so they had to rely on their own legs to get from one place to another. E quindi dovevano affidarsi alle proprie gambe per andare da un posto all'altro. And suddenly, so doing walking meditation on a regular basis, then would help to build a good stamina, and suddenly that would be helpful then for a longer journey. E quindi fare la meditazione camminata aiuta a sviluppare una certa resistenza che può essere utile in viaggi più lunghi. Now, the second benefit or advantage of the walking meditation is certainly given as being good for striving. Striving, in, striving in effort, in terms of effort. E il secondo beneficio è quello di il fatto che fa bene allo sforzo, quando uno deve sforzarsi. Now, the Venerable Sadhu Pandita explains in this context as follows, namely, he says, in the walking meditation, and somewhat different from the sitting meditation, we need a twofold effort, namely, the physical effort to maintain an upright posture and to actually do the walking, to move the body up and down, and then we need on top of this the mental effort to be with whatever predominant physical phenomenon comes up during the walking. Il venerabile Pandita spiega che durante la meditazione camminata è necessario un doppio sforzo. Uno è uno sforzo fisico, che è quello di mantenere la posizione eretta nella camminata, e l'altro è uno sforzo mentale, ed è quello di essere in grado di cogliere qualsiasi fenomeno fisico che dovesse sorgere. And sometimes you might be doing the walking meditation and you feel, my goodness, only half an hour has gone by, I still have half an hour to go, and will I ever make it, and this is not benefiting in any ways. In a case like this, just keep doing your walking practice, even if you dislike it, never mind. And it's this exerting oneself from moment to moment to moment to take yet another step and be mindful of it, the physical effort involved in this, the mental effort involved in this, and this will build your overall effort. E quindi uno potrebbe durante la camminata guardare l'ora, dire è passata solo mezz'ora, ce la farò mai arrivare alla fine. E uno può anche dubitare, dire ma potrò avere dei benefici da questa camminata. Allora il suggerimento qui è di continuare a camminare passo dopo passo, cercare di sviluppare la consapevolezza sul passo, e questo in qualche modo svilupperà anche lo sforzo, cioè questo sforzo fisico e mentale sarà di grande aiuto per sviluppare lo sforzo più generale, più nel senso generale. Then, the third advantage ascribed to the walking meditation is given as contributing to good health. Quindi terzo vantaggio, terzo beneficio della meditazione camminata è si riferisce alla buona salute. And if you were to do only sitting meditation and then you take two meals a day, then it might well happen that you end up with constipation and all sorts of other physical ailments. Se voi faceste solo la meditazione seduta e pur mangiando due pasti al giorno, potreste comunque sviluppare una forma di stitichezza o comunque altri disturbi fisici. So, by doing the walking meditation on a regular basis after sitting, this will help to activate your or will support your digestion of the food, and it will also energize your blood circulation, plus it will also help the body to relieve some of the muscular tension that may have accumulated during a sitting. e quindi se praticate la camminata in maniera regolare dopo ogni seduta, questo potrà aiutarvi nel processo della digestione, così come potrebbe dare più energia alla circolazione del sangue e inoltre potrebbe aiutarvi a superare delle tensioni muscolari che potreste aver accumulato durante la seduta. And Satnavin, the walking meditation also helps to build strong concentration. La camminata aiuta anche a costruire una forte concentrazione. And so this can be explained by saying that in this sitting we try to be concentrated on whatever predominant object comes on, and suddenly then when we do the same thing during the walking meditation, then it will help to stabilize our concentration. E questo si spiega col fatto che durante la meditazione noi cerchiamo di focalizzare su tutti gli oggetti predominanti che sorgono, e allo stesso modo questa attenzione viene poi trasferita durante la camminata, e queste due pratiche insieme aiutano allo stabilizzarsi della concentrazione. Oh, sorry, I've made a mistake. It's the fourth benefit is that it builds, that it helps to overcome sloth and torpor. Il quarto beneficio, se c'è stato un errore nella numerazione, il quarto beneficio è che aiuta a superare la pigrizia e il torpore. And the last benefit is certainly that of building durable concentration. Ed è il quinto beneficio, quello che aiuta appunto a sviluppare questa concentrazione durevole. And certainly so, as we're concentrated in the sitting and then also in the next walking meditation and then again in the next sitting meditation, this will build our overall concentration. Quindi quando siamo concentrati in una meditazione seduta e poi nella camminata successiva, e questa concentrazione poi la trasferiamo ancora in quella seduta successiva, allora questo aiuterà a sviluppare una concentrazione più generale e complessiva. Now, these are the five specific benefits ascribed to the walking meditation, and then we have yet another one, namely consisting in the attainment of the Dhamma. Allora, questi sono i cinque benefici che di solito sono collegati con, associati con la meditazione camminata, ma ce n'è ancora uno che si può aggiungere, ed è quello del che aiuta a raggiungere il Dhamma, ottenere il Dhamma. And certainly there's the story of Chittatheri, an elderly lady who entered the order of the nuns under Vajrapati Gotami, so the step, how do you call her, stepmother, no? Yeah, stepmother of the Buddha, at an old age. Allora, c'è, a questo riguardo c'è la storia di Chittatheri, che era una monaca anziana che si è unita all'ordine delle monache, e questo ordine era guidato dalla, praticamente dalla madre adottiva del Buddha, che si chiamava Vajrapati Gotami. And so anyways, Chittatheri went to Gijagutta, and thereafter, some walking meditation, she then attained arahantship. Allora, Chittatheri è andata a questo monastero, e appunto si dice che dopo la meditazione camminata ha raggiunto lo stato di arahant. And in the Patisamhita Magga, apparently there are two references to monastics. One attained doing walking meditation for a period of 20 years and eventually becoming an arahant, and the other one doing walking meditation for just 16 years and something earlier becoming an arahant. Quindi infatti San Vida Marga si fa riferimento a due episodi che riguardano due monastici, due monaci che hanno ottenuto appunto lo stato di arahant. Uno dopo 20 anni di meditazione camminata e l'altro dopo 16 anni. Now to end our talk on walking meditation with a nice story, namely that of Pratipa Ma. Allora, per terminare questo discorso di Dhamma, l'Onorabile ci racconta la storia di Pratipa Ma. And so, Pratipa Ma was from West Bengal, and she and her husband went to work in Burma, and she had she and her family had all sorts of major difficulties, and her son passed away, and then her husband passed away, and Pratipa Ma very much wanted to meditate over many years, but her husband wouldn't let her. Allora, dunque, Pratipa Ma veniva dal Bengalo occidentale, ed era sposata, e con il marito si trasferirono per lavorare in Birmania, e qui incontrarono molte difficoltà e quindi perse prima il marito e poi un figlio. E Pratipa Ma aveva sempre voluto meditare, ma non l'aveva potuto fare perché il marito non voleva, c'era l'opposizione del marito. And she herself fell sick, was seriously sick, and eventually she recovered, and decided, and her desire to meditate was still very strong, and suddenly some of her relatives told her about the Mahasi Meditation Center in Rangoon, Burma, and that's where she went. Allora anche lei poi si ammalò gravemente e continuò comunque a coltivare questo desiderio di meditare. Allora i suoi parenti le dissero di questo centro di meditazione della tradizione Mahasi che si trovava a Rangoon in Birmania. And apparently she practiced only for a very short period of time, just 7 days, and when she did the walking meditation one day, it so happened that some stray dog came and bit into her calf. Allora, pare che abbia meditato solo per 7 giorni e mentre faceva la camminata è arrivato un cane randagio e praticamente la morsicò nel polpaccio. Yes. And she was so concentrated, apparently she had pretty strong concentrative powers, that she didn't even realize this. Ed era così concentrata, perché pare che avesse un potere di concentrazione fortissimo, che non se ne accorse nemmeno. And it was only after some time that she realized that something was, well, during the walking meditation, something was pulling her leg backwards. E solo dopo un po' si accorse, cioè si rese conto che durante la meditazione camminata c'era qualcosa che le stava tirando indietro la gamba. And then only she realized that a dog had bitten her. E si accorse solo allora che c'era un cane che l'aveva morsicato. So, let me conclude by wishing that may all of you see the benefits of the walking meditation, see the potential and the benefits of the walking meditation. May you do it with much care and respect, and may it lead you to the attainment of at least the path of stream entry during this retreat here in the Abhyangajaleji. Allora concludo il discorso di Dhamma augurando ai meditanti di vedere il potenziale e i benefici della meditazione camminata, che voi possiate praticarla con cura e rispetto e che essa possa condurvi al ottenimento almeno del primo stadio di illuminazione, quindi l'ingresso nel sentiero, e che possiate farlo proprio qui a Pian dei Ciliegi.